fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo entrati in diretta a Ristoradio Convento in compagnia di due spose carichissime. Vero ragazze, siete carichissime? Certo! Sì! Si può dire perché siete così cariche? Per la bella serata in compagnia delle amiche e perché ci sposiamo, dai! Solo per quello, io pensavo anche per l'iniziale del vostro nome. Esatto. Gigi. Siete le ragazze 2G, giusto? Esatto. E stasera abbiamo toccato il picco quando avevamo le 5 G. Le 5G, grande locale avanti, il convento. Siamo riusciti ad avere già il 5G qua da noi. Ecco, giusto? Esatto. Ma perché vi chiamate esattamente? Gloria Giusi. Gloria Giusi con la Y, con ricordiamo. Con la Y all'anagrafe. All'anagrafe? Sì. Allora, così, ufficiale, giusto? Sì. Allora, tu con la Y arrivi da? Allora, un paesino vicino a Del Vallo. Perfetto, a piedi è venuta tra l'altro. Esatto, eh? Sì, certo. Perfetto, bravissimo. È vicino, quindi siccome è vicino a Maddalena del Vallo, ho detto vengo a piedi. Poi abbiamo? Gloria dalla provincia di Lodi. Non Pavia? Pavia là dove lavoro. Ah, ok. Non hai portato nebbia, giusto? Ma un pelino, giusto per. Giusto per stare nel mood. Allora, ragazze, le vostre amiche bastardissime mi chiedevano di fare tipo l'intervista doppia. Oddio, va bene. Sareste pronte ad affrontare? Sempre pronta a tutto. Ormai, doppia. Ormai ho fatto di tutto. Avete fatto di tutto oggi, giusto? Esatto. Si possono elencare brevemente le penitenze che vi hanno... Vai, prego. Dalla mattina alla sera, cioè potete farmi un racconto così a tutti gli ascoltatori della giornata tipica della sposa. La giornata tipica della sposa, fermare uno sconosciuto venezuelano e con chitarra e chiedere di accompagnarci a... Maledetta Primavera. Abbia. Vi avete fatto cantare Maledetta Primavera? Noi ha cantato Maledetta Primavera e lui ci ha accompagnato con la chitarra. Tra l'altro in mezzo alla piazza davanti a tutti. Di Desenzano, con lo sconosciuto venezuelano. Cioè esatto. Dovevate trovare uno sconosciuto venezuelano? No, no. È capitato così. Prima con la chitarra, diciamo. Ah, ho capito, perfetto. Quindi era uno sconosciuto venezuelano. Sì. E l'avete cantata? Sì, certo. Fate finta che io sono venezuelano, sono sconosciuto. Pronte? Che fretta c'era, maledetta primavera. Che fretta c'era. Purtroppo in radio non si può vedere che suona la chitarra benissimo, tra l'altro, e che sembro venezuelano. Tra l'altro. Poi altra prova? Io ho dovuto portare i muffin all'esercito italiano. A tutto l'esercito italiano, tra l'altro. Io che mi scusavo e dicevo buon lavoro, mi dispiace, voi lavorate, però mi hanno costretta e loro ci sono stati. Ci sono tutti? No, alcuni hanno preso tanto un muffin, basta. E va, prefabbricati da te, fatti a mano? No, io non cucino. Ah, non fai un cavolo? No, ci mancherebbe altro. Ma ecco, avvertiamo il futuro sposo che si chiama Marco, che tu ti rifiuti altamente di cucinare. Assolutamente. Complimenti Marco, hai fatto una buona scelta. Ok, quindi avete fermato l'esercito, hanno preso i muffin. Sì, e poi... C'era uno muscoloso, mi hanno detto? Ah, non dell'esercito, era un altro fermato a Desenzano che si è ben prestato a fare la foto con noi togliendosi la maglietta, ovviamente. A voi è dispiaciuto tantissimo. Tantissimo, questo. Quella è stata la condanna peggiore che vi poteva capitare. Era anche liscio, eh. Che fai? Gli avete sfamato la cremina? No, Giusy l'ha abbracciato, io ero un po' in imbarazzo. Sono stata un po' rigida. Sei stata rigida? Un pochino. Il ragazzo invece era tranquillo? Felicissimo. Ok, felicissimo. Fantastico. Ha chiesto pure la foto con noi. Giustamente, poverino, povero ragazzo. E te, Giusy, ricordiamo, era a penitenza, cioè tu non volevi. Certo, io non volevo, mi hanno costretta. Ti ha costretto di là, vero? L'amica. E Luisa? E Luisa, sì. Ah, ecco, diamo colpa. Poi, purtroppo da fuori non si può vedere adesso, ma abbiamo la panterona. Salutiamo la panterona, Ilaria e Luisa, salutiamole. Ecco. Ciao ragazze. Ciao ragazze. Ciao. Ecco. Fantastica, ci stanno ascoltando, avete visto? Sì, chissà, sì. Pensate al camionista che vi sta ascoltando in questo momento, che sta guidando in autostrada. Ciao, buon viaggio, mi raccomando. Ecco, salutami il camionista. Ciao. Camionista. Camionista. Come saluteresti un camionista? Bobo. Cioè, tu saluteresti. Tra l'altro hai fatto il gesto anche del... Cioè, cioè, inconsciamente ha fatto il gesto della mano. Cioè, state attenti camionisti in ascolto, che se vedete Giusy, ecco, ferma l'autogrill che vi saluta, fa buh, buh. Fantastico, ecco. Te, Gloria, hai un altro modo per il camionista? No, o... no, mi adeguo. Sì, anche tu, fallo anche tu allora che... Baba! Perfetto, ecco questo saluto tipico... Favese. Favese per i camionisti. Tra l'altro non gira più neanche un camionista dalle parti di Pavia, Lodi e dintorni. Perfetto, fantastico. Però magari in Sicilia, dai. In Sicilia, tra l'altro avete questa fascia, adesso è diventata un po' di Croce Rossina, la stai tenendo, eh? Cioè, per il nostro ruolo. Per il vostro ruolo, che ricordiamo siete due infermiere. Sì, ecco, esattamente. Del reparto rianimazione. Sì. Avete varie tecniche per rianimare? Certo. Sì? Giusy è bravissima. Va bene, ecco. Non entriamo nel merito delle tecniche di Giusy per rianimare. Tra l'altro sta venendo caldo. Forse bisogna rianimare la Giusy a sto punto. Comunque, continuando con le penitenze, le cose, avete subito altre cose? O... Beh, adesso ho avuto 4 ciupiti. Ah sì, della sincerità. Ecco. Sì. Questa... Le domande scomode a cui abbiamo risposto. Esatto, eravate comodissime a rispondere praticamente, però le domande erano scomode. Sì, abbastanza. E praticamente avete toppato 2 su 6? Io sì. No. Gloria 2 su 6 e Giusy? 1 su 6. No, 3 su 6. 3 su 6. Quindi, sì. Quindi la Giusy è più birichina alla fine. Confermi? Sì. Mi tocca, mi disegnano così. Esatto, non è colpa tua però. Non è colpa tua. Quindi torniamo all'intervista doppia. Chi è più birichina delle due? Gloria. Perfetto, siete d'accordo? Allora, chi è la più spavalda? Io forse. Sì, Di nome che Gloria, sono... Gloria. Ok, facciamo che dici i nomi, Gloria, okay, e Giusy. Gloria, ok. Chi è la più ficcanaso? Io, Giusy. Giusy, che hai imparato subito il gioco io. Perfetto. Tu ricordati che Giusy e te ricordati che sei Gloria. Chi è la più allupata? Dipende. Dipende da chi vediamo. Dipende da chi vediamo. Salutiamo Giovanni Romito, il più figo della rianimazione di Pavia. Ah, così questo messaggio pubblicinale è medicinale. Pubblicitario. Città medicinale. Esatto, mi avete confuso un po' tutta sera, voi con tutte queste cose. Attenzione! Si è accorto adesso in differita che avete salutato, ripetete? Giovanni Romito, sei un mito. Giusto? Giusto, confermano. È un bel manzo. È un bel manzo, tra l'altro come fa il manzo? Però, ecco, quello perfetto. Il toro della corsia. È uno specializzando. È uno specializzando, però è manzo. Va bene, attenzione, da fuori mi stanno indicando che è un particolare. Secondo me è un lobby specifico. È un lato B. Niente male, ecco, ricordiamo il lato B di Giovanni, il manzo di Pavia. Okay. Perfetto, ok. Allora, chi di voi è la più sensuale? Allora, la mia amica Gloria è una gnocca, posso dirlo. Però Giusy come sex appeal devo dire che forse mi batte, decisamente. Sì. Attenzione, scusate, salutiamo il chirurgo estetico, salutiamo, ecco, e la sua baby doll. Perfetto, ciao, alla prossima, ci vediamo, ecco, vi aspetta anche lui in corsia, ecco. Esatto. Ecco. Va bene, torniamo a questa breve parentesi. Sì. Eravamo a chi è la più bella? Allora, secondo me Gloria, la mia amica, è una gnocca spaziale. Grazie Giusy, anche tu sei proprio un bel bocconcino. Allora, siete sul viale dei complimenti, chi è? No, aspetta. Gloria? Sì. Cosa positiva di Giusy? La sincerità. Una cosa negativa? Una cosa negativa... Che sulla... L'emotività. È impulsiva? No, è molto emotiva. Ah, è sì, sensibile. Piango anche per le pubblicità in realtà. Perfetto, ecco, se magari c'è un'offerta 3x2 e lei sì, non l'ha vista... Io piango. Lei piange, se ci sono 3 fustini al prezzo di uno... A voglia, se piango. Lei piange, si commuove, sì, certo. Poi sul fustino lei certo. è molto attenta al fustino. È molto sensibile al fustino, ecco, specie se è liscio. Certo. Ok, perfetto. Poi Giusy, un pregio della nostra Gloria? Allora, Gloria è sincera, è sensibile. Ne è più di uno, hai visto? Sì, è un'ascoltatrice. Un'ascoltatrice, esatto. Ti ascolta sempre nel mondo. Mi ascolta sempre molto. Le tue lamentele, i tuoi problemi, le tue menate. Sì. Perfetto, sì. Non ti sei mai accorto, ma indossa sempre le cuffie. Perfetto. Mentre un dito della nostra Gloria? È un difetto... Boh... un difetto boh. Boh, non so. È sensibile anche lei, no? Ah, il difetto, insomma, questa sensibilità per voi è un difetto praticamente. Beh, dipende dalle situazioni, dipende soprattutto col nostro sì. lavoro può essere un difetto entrare troppo in merito a determinate situazioni, sì. Ok, Gloria, una cosa che hai fatto e ti sei vergognata? Beh, tanti anni fa, fare il bagno nuda. Non c'è da vergognarsi, no, assolutamente. Però ero anche con degli amici, quindi. Ah, meglio ancora! Sia maschi che femmine, sì. No, perfetto, cioè, questa cosa non è assolutamente. Guarda, questa qui te la banno perché secondo me era un complimento. No, ok. Ok. Quindi questa cosa però adesso ti vergogni. Ma no, completamente mi nuda? Allora. Ma di giorno? Di notte. A mezzanotte? Classico. A mezzanotte, sì. Completamente. Completamente nuda. A Pavia? No, non si fa il bagno a Pavia. Nel Ticino non è caso. Perfetto. Guardate la leopardona come vi guarda intensamente sul, ecco, sta graffiando il vetro della radio. Mentre te, Giusy, una cosa che hai fatto che ti sei vergognata. Ricordo che quella della Gloria non era da vergognarsi, comunque. No, anzi, peccato non essere amici di Gloria. Infatti. Io di solito ballo sculacciandomi davanti a tutti. E però poi ti vergogni di questo, ecco. Perfetto, e stasera non l'hai fatto però? Sì, l'ho fatto davanti a te. Ah, me lo sono perso, quindi poi... Ben per te, buon per me. Mentre, avete mai rubato i biscotti al supermercato? No, rubato no. Mai? Mai. Io ho rubato le mollettine, perché mia mamma non me le comprava, allora le rubavo. Ah, quando eri piccola? Quando ero piccola. Forse anch'io una specie di bijou da qualche parte, non ho visto che saltano fuori gli altarini. Però non ricordo, precisa se ho pensato di farlo, che è tanta cosa, oppure l'ho fatto davvero. Avete mai desiderato un ragazzo di un'altra? No, ragazzo di un'altra no. No? No. No. Che brave. No, no. Avete mai no. desiderato un ragazzo? Sì. Avete una tecnica per farvi abbordare? Ma di solito... Allora, più che una tecnica mi dicono che ammalia molto il mio sorriso. Con la mascherina funziona benissimo, ragazzi. Esatto. Questo è un periodo casto per... giustamente ti stai per sposare, quindi mascherina è perfetta. Ok. Te, Giusy, hai una tecnica? Ma dicono il mio sguardo. È lo sguardo che... Magnifico. Siciliano. Siculo. Lo sguardo siculo che attira. Quindi fai ancora un gioco di sguardi anni 80, te? Sì. Guarda come mi guardi, l'attenzione, questo è lo sguardo magnetico. Fortuna che ha sugli occhiali stasera, che ecco, fermano lo sguardo. Ok, l'ultima domanda un po' piccante: il posto più strano dove avete fatto l'amore? Inizio io, Gloria. Sul tizio, sempre no, quello, no. Il posto più strano che ho fatto l'amore. Oddio, non so, amica, l'hai fatto te. C'era anche Giusy? Perché... non c'erano altre persone? Nel negozio del mio fidanzato. Ah, nel negozio, tra l'altro durante l'orario di lavoro. No. Che, cosa fa il panettiere? Ti ha infornato? No, ha un negozio di arredamento. Ah, un negozio di arredamento, quindi ecco perché il rewind prima sulla poltrona e ti sei scaldata parecchio. Ok, quindi nel negozio di arredamento in vetrina, tra l'altro, non ti raccorta? Quasi in vetrina, ecco, c'è stato un boom di affluenza in quel periodo. Ecco, grandi vendite. Perfetto, quindi era giorno o notte? No, era notte. Era notte. Era notte, però era abbastanza in vetrina, quindi un po'... Era un po' sul piccante andante. Esatto. Quanti ciupiti avevi in corpo? Ma non più tanto. Ah, proprio così? Un po' di berretti. Ti è venuta forse, la botta delle rosse e non hai capito più niente. Sì, vabbè, non convivevamo, quindi... Però, quindi, c'era ancora quel... Si cercava un po' più di... Frizzo. Esatto. Perfetto. E la nostra Giusy? Io mi spiaggio. In spiaggia? Sì, sotto una barca. Come sotto una barca? L'avete capottata? No, era lì e ha capottata. Avete capottato la barca? Cioè, sulla spiaggia però. Eravate sotto? Insomma, una bella... Quante capocciate hai preso? Tantissime. Si sentiva la barca, tum tum tum tum tum. E vabbè, è arrivato il bagnino a un certo punto? No, era notte. Ah, era notte anche lì, ecco... Quindi, signore e signori, se vi aggirate per le spiagge di Mazara del Vallo, abbiamo detto, non vi preoccupate se sentirete dei rumori sospetti nelle barche, ecco, e non andate soprattutto a guardare perché potreste interrompere la nostra selvaggissima Giusy durante il rituale di accoppiamento, giusto? Giusto. Va bene, perfetto, ragazze, siete simpaticissime, dovevamo parlare 5 minuti e un quarto d'ora che stiamo parlando. Sì. Ecco, quindi il nostro autista sarà già bello che è arrivato asito, il camionista. Mi raccomando, mettete la cintura e andate piano. Ma siccome hanno già sbandato a sentire i vostri giustamente, e molti stanno venendo già sul fiume. Sì, Ticino. Ticino a Pavia a fare il bagno nudi a mezzanotte anche. Ecco, nella speranza. Non fate il bagno che poi arrivate da noi al reparto. Mi raccomando, perfetto. Che il Ticino è pericoloso. Niente bagni nel fiume. Ecco, e lo dice lei che giustamente, ecco, fa il bagno nuda. Va bene. Nel mare. Nel mare, nel mare però. Nel mare. Ancora un saluto dalle nostre spose, vai col saluto, salutiamo le vostre amiche. Dai, salutiamo le vostre amiche. Salutiamo Ilaria, Mara, Elena, Luisa, Giulia, Yasmin, Gloria, Yasmin, Bea, Federica e Giusy e Gloria. Giusy e Gloria, certo. Sulle mani. Uè, ciao. Ciao.